C'è lui del cellulare, di Gabriele Vasquez, buonasera, ben trovato. Buonasera. Abbiamo al telefono un ospite, Massimo Marino. Pronto Massimo, ci sei? Pronto fratello. Come stai? Come va Massimo? Tutto bene, voi? Tutto benissimo, bene. Benissimo. Allora, diciamo che abbiamo qui in questa rubrica di cinema, abbiamo ospite Massimo Marino, perché Massimo Marino è tra gli interpreti di Una cella in due, un film che esce questa settimana, è un film in cui i protagonisti sono Enzo Salvi e Maurizio Battista, ed è veramente un film, io direi, denoantri, cioè un film di romani, pieno di romani, ci stanno un sacco di partecipazioni, tra cui quella di Massimo. E la prima domanda che voglio fare a Massimo è... te, come, perché hai aderito a questo film? Qual è stata la motivazione che ti ha spinto, a parte i soldi? I soldi, quella è l'ultima, perché poca roba, fratello. L'hai fatto per la gloria? E qui se mangiamo pane, immagine. Senti, questo non è il primo film a cui prendi parte. Hai fatto già Grande, Grosso e Verdone, che io già all'epoca, quando quel film uscì, ebbi a dire che la parte tua era sicuramente la parte migliore del film. Ma insomma, hai fatto anche altre comparsate. Io voglio sapere quanto interesse hai in questa cosa. Sono loro che ti chiamano? Sei tu che vuoi farle? Come funziona questa tua partecipazione nel mondo del cinema? No, in realtà sono loro che mi cercano. E che ti hanno detto? Ti hanno spiegato il tuo personaggio o l'avete concordato? Avete deciso che personaggio avreste fatto? Ma che frequenza è la radio, fratello? 106 e 600. 106 e 600, mica. Che vuoi che... 103 va avanti. Stai. Con macchina, capito, fratello? Ah, pensavo che volessi controllare che era tutto vero. Ah, stai andando alla premiere, grande. All'Adriano, fratello. Sei in smoking, quindi? 106 e 6. Sei in smoking, quindi, se vai alla premiere? Stai in smoking? No, look at black, fratello. Straordinario. E forza. No, me devi dire, come prepari sti personaggi? Te li inventi te? Te li dicono loro? No, questo è tutta, non so se merito o colpa di Enzo Salvi. Ah, tu quindi hai solo interpretato, non hai contribuito a scrivere? Eh sì, io gli ho detto tu dimmi quello che devo fare, io lo faccio. Perché perché qua è la seconda volta che ti fanno fare uno che tira di cocaina. Eh sì, no, ma siccome da anni aleggia sta leggenda che sto cocainomane, almeno ora c'hanno il motivo. Grande. Ha capito? Grandissimo. Visto che gli piace tanto parlare da gente, tamogliene motivo, no? Grandissimo. Senti, ti devo chiedere una cosa. Questo un attimo esula un attimo dal film. Io voglio sapere, te che frequenti un certo ambiente, che c'hai dimestichezza, che c'hai le mani in pasta in certe cose, voglio sapere se hai delle indiscrezioni personali su tutta la storia, il Presidente del Consiglio, Rubi, te che ne sai di più, dimmi qualcosa. Ma lì è, secondo me questo è proprio il paese del bunga bunga, non è che il Verruschia non è che ha scoperto niente, capito? Te già lo sapevi? Ma sì, ma questo è il paese del bunga bunga. Poi chi lo fa come noi tapini, Love Ghost, e chi lo fa 7.000 euro a botta, capito? Ma in questi ambienti che frequenti te, la sostanza è sempre quella poi alla fine. Ma in questi ambienti qua, come vedono il bunga bunga? Cioè del Presidente del Consiglio, lo condannano oppure no, va bene, lo famo tutti? Ma io non penso che lo condannano, perché poi alla fine tutti. Ma il comune mezzo cauto, come si dice, no? Ci stanno tutti in mezzo. No, vabbè, questo è comune, insomma, no? Poi io si sa, dai tempi della storia, tirati un pelo di figa che in caso te vuoi, no? Amen. Senti, ma invece, mo tu stai come sempre al Vivi Roma, t'ho visto alla conferenza stampa che c'avevi il mitico giacchetto del Vivi Roma, ma c'è qualcosa... No, quello è alla linea Sapre Collection. Senti, quello è proprio limited edition, C'hai solo te quello, te lo sei cucito da solo, pezzo unico. Senti, ma c'è qualcosa, al contrario degli occhiali che c'avevamo solo gli e Bono. Bono Vox. C'è qualcosa che vorresti fare in televisione che non te fanno fa? No, io in televisione, ringraziando dell'ambiente, la mitica emittente Palafitta, sinceramente l'unica ricchezza che ho è che ho proprio libertà di esprimermi e di fare quello che mi passa per la testa. Grande. Ovviamente poi sempre sotto la mia responsabilità personale, perché poi insomma non è che se dico Berlusconi è un fio di na, e poi a Massimo Ia responsabilità di quello che dico io, ovviamente. Certo, certo. Senti, invece, tornando al film, vorrei, adesso poi noi quando attacchiamo con te comunque ne continueremo a parlare e diremo, però adesso vorrei una tua descrizione, un tuo giudizio su questo film. Ma guarda, nonostante è un film fatto con budget limitato, però è carino perché è ricco di idee, di spunti, anche perché poi io sono sempre stato dell'idea che non necessariamente le belle cose abbisognano di un grosso budget, l'importante è che c'è l'idea di fondo. E che poi fa una, cioè poi fa Avatar, ma che è una cagata, però poi fa un filmetto con due soldi, però invece poi c'è un bel riscontro, una critica nel pubblico, no? Certo, certo, poi questo qui è l'idea che conta secondo me. Poi se c'è sta pure qualche soldo da investire sopra, meglio ancora, però basilarmente è importante l'idea, il progetto che deve essere ben solido. Poi questo qui è un film veramente di... Guarda di Roma Televiso, non lo famo con 200.000 lire, manco con 200 euro. Però mi piace perché cioè traspare, trasuda di veracità, di genuinità, di impegno, perché no, dei sacrifici. Se vuol dire che questo qui è la versione cinematografica, cioè l'equivalente cinematografico di quello che fai te in televisione? Beh, proprio quello che faccio io in televisione, no, dai, c'è una trama, c'è un soggetto, c'è dei risvolti anche un po' romantici, un po' attuali di certi soggetti che ci stanno oggi, tipo i furbetti del quartierino. Però è veramente una cosa di Roma, cioè è veramente una cosa di romani, cioè è pieno di spirito, sì, romanesco. Veramente made in Roma il film. Perfetto, perfetto. Senti, con la forza dei Ceccherini, ma Ceccherini secondo me è un attore universale che si presta e va bene dappertutto. Sì, sì, fai fantastico. È un po' sui maccheroni. Sì, concordo pienamente con questa affermazione. Senti, noi molte lasciamo a Nacca che devi andare alla prima, ti ringrazio tantissimo per essere intervenuto. Grazie a voi, fratello, e a frappè, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Bella, fratello, a frappè. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, regà. Ciao. Lo scoop l'hai fatto finalmente. Guarda, una delle interviste più importanti della mia vita. Lo so, me ne rendo conto. Allora, hai visto il film? Allora, ho visto questo film, che ricordiamolo perché l'abbiamo detto un po' en passant, si chiama Una cella in due, esce oggi, ed è un film di Nicola Barnaba, che è un regista che fa il suo esordio al cinema, ma in realtà ha fatto molte cose per la televisione, già aveva, insomma, è uno che mastica cinema da molto tempo. E è un film con Maurizio Battista e Enzo Salvi, scritto, Enzo Salvi ha anche contribuito a scrivere il film, e come diceva Massimo Marino è una commedia, non è un film comico, cioè non è un, non vuole essere un'unione di tanti sketch, ma è una commedia, ha una sua storia, è la storia di questo personaggio, questo avvocato molto trafficone che finisce in galera perché la moglie lo incastra, e finisce nella stessa cella di questo invece poveraccio che aveva fatto una rapina stupidissima che finisce male. I due fanno amicizia e poi la storia va avanti. È chiaramente un film pieno di gag, è un film che ricorda veramente la commedia sgangherata anni 70, veramente è un film volutamente sgangherato, ecco, sì, sicuramente. Ed è chiaramente avrà un'uscita molto importante nel territorio laziale romano e minore nel territorio nazionale, però è perché è ovvio che questo è un film di romani per romani. I cammei non si limitano solamente a Massimo Marino, ma c'è anche Mario Corsi, ovvero Marione, Galopeira, ci sono i giocatori della Roma, i giocatori della Lazio. È pieno di questo tipo di partecipazioni. Per cui io non mi sento addirittura di dirvi di spingervi a tutti i costi a spendere i soldi di un biglietto, ma se avete capito dalla descrizione che vi ho fatto che tipologia di film è nel suo genere, a tutto il suo perché. Bene, ma che sta fa? Ti metti a guardare i video? È troppo idiota quello che abbiamo visto adesso. Mentre parliamo di cose serie diverse, insomma importanti, film che hai visto questa settimana, oltre a questo, Gabriele Vasquez. Questo che è il capolavoro della settimana, questo. Ma invece questa settimana escono due film, anzi già che ci sono, facciamo questa cosa da radio del quartierino. Bene. Ti do questo contenitore ad altissima definizione, nel quale c'è una prova audio, un documento audio di uno dei film di cui parliamo. Ah sì? Sì, da ascoltare. Dicevo, intanto parlo di un altro. Vai. Dicevo, intanto parlo di un altro. Questa settimana esce uno dei film che ha vinto diversi premi agli ultimi Oscar, cioè l'ultimo che ci mancava tra i grossi in Italia, che è The Fighter. The Fighter si è aggiudicato tra i più importanti miglior attore non protagonista, ovvero Christian Bale. C'è un virus. Vabbè, a parte quello c'è un virus. Ma quello mi serve ad altre cose. Ma roba davanti, mi dai una pendrive con due virus. Perché se no si sentono c'è soli. C'è il conflicker worm che è terribile. Perché se non è efficace uno, è efficace l'altro. Capito? Appunto. Qual è? Questa è la mia vita? No, c'è un file audio. File audio? Radiografia io qui ho. No, questa è una radiografia, non c'entra niente. Ma non ce ne sono altri. Come no? Parola mia. Ah, questo, eccolo qua, sì. Ok. Sì, trovato. Tra un virus e l'altro. Allora. Meglio che tolga immediatamente questa pendrive che cammina da sola, questa qui, piena di virus. Da dove li hai presi? Sì, che quando la perdo, poi lei mi chiama, capito? Lo credo, è terribile. Allora, il film. Stiamo parlando di un altro film rispetto a questo qua. Dicevo, The Fighter ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista, che è Christian Bale, e l'Oscar come miglior attrice non protagonista, che è Melissa Leo. È un film di box. È un film di box che, a me mi dispiace dirlo, perché mo non è che tutti i film di box devono guardare a Rocky, però questo film un po' guarda a Rocky, perché è la storia vera di questo pugile negli anni 90, che veniva dalla provincia, che era fratello di un altro pugile molto importante, che aveva avuto degli incontri importanti, insomma, che non era mai esploso veramente, ma era stato qualcuno, che cerca anch'esso, tra mille difficoltà, di diventare qualcuno, di avere il suo incontro importante. Queste difficoltà sono per l'appunto la famiglia, e la famiglia sono questi due attori che hanno vinto gli Oscar come non protagonisti: Christian Bale, che è il fratello per l'appunto, e Melissa Leo, che è una terribile madre. È un film, come avrete intuito, molto ben recitato, che tuttavia alla fine racconta la classica storia all'americana di trionfo, di seconda occasione, l'uomo che alla fine ce la fa perché avrà un'altra occasione, perché riuscirà a trionfare quando troverà l'amore e tutto quanto, che è un topos eterno del cinema americano, ma lo fa veramente in una maniera abbastanza moscia. Le sequenze di box vogliono volutamente imitare le riprese televisive, quindi sono terribili. È una scelta di realismo che però, insomma, non paga in termini di spettacolo, di creatività, di idee, di inventiva, e insomma, alla fine forse anche per colpa del fatto che la storia è vera e quindi non è al 100% drammaturgica, non può essere, cioè se una storia è vera non può essere necessariamente anche un ottimo dramma, avere i suoi climax, avere i suoi momenti topici, però fatto sta che il film non lascia poco e niente, è uno di quei film che il giorno dopo si dimenticano. Intanto tu ti stai guardando dei video di scazzottate. Sono degli idioti. Sto vedendo dei filmati di idioti. Veramente di idioti. Allora, abbiamo il file audio. Vediamo. Prima mandalo, poi diciamo che film è. Va bene, aspetta che devo stoppare questo. Vado, Vai. Ok, Lake Victoria, siete pronti per le teste? Sì! Ok! Ci presentiamo un nuovissimo film! Incontri ravvicinati del terzo pelo! Sì! Sto parlando di teste, signorine! Beh, allora, aspetta, mandiamo la pubblicità. Ma mi devi rendere conto di questo filmato, di questo file audio, di questo contributo raffinatissimo. Allora, devi rendermi conto del film. Allora, questo qui, innanzitutto, da che film era tratta questa clip? Questa schifezza, diciamo. No, c'è tutto un motivo dietro. Ah, ecco. Era Piranha 3D. Ma perché? Cosa c'entrano queste? Esatto, perché una clip del genere da Piranha 3D? Perché in questa clip c'è almeno il 75% del film. Ci sta l'acqua, perché si sente l'acqua, l'acqua. Il casino. Ci sta il party con la musica E soprattutto c'è un elemento determinante di questo film, oltre ai piranha: donne nude, le tette. Questo qui è un film di sangue e tette. Ma che roba. Però a me è piaciuta una marea. Perché, allora, innanzitutto diciamo Piranha 3D. Perché Piranha 3D ma è... scherzo, cioè, tu che parli di film impegnati Ma infatti adesso te lo motivo. Quarto potere. Ladri di biciclette. Questi film qui. I 10 comandamenti. Cioè, perché? Via col vento. Alexandre Aja, questo francese straordinario, quello di alta tensione, sì, ha fatto una cosa che negli ultimi tempi hanno fatto in tanti, cioè mettersi a rifare quel tipo di film anni 70, come fa anche Robert Rodriguez, questi film molto di genere. Ma non l'ha fatto in maniera... Convincermi, sì, sì. Non l'ha fatto in maniera fighetta, capito? Non l'ha fatto alla moda, ha fatto una vera porcata anni 70. Cioè uno splatterone. Ma in una maniera incredibile. Il suo pregio, vero, per cui è migliore dei film anni 70, è che lui si è veramente divertito e si diverte con te. Cioè, non si è preso sul serio. È come se questo film l'avessimo fatto io e te. Stavamo lì e dicevamo: ma dai, facciamo che poi il piranha gli mangia il pisello a lui. Sì, sì, facciamolo. Ed è così, è un film divertentissimo, dove succedono le cose più impensate, molto aderenti al genere. Cioè ci sta all'inizio, inizia con la prima vittima, per dire, che è un classico di questi nessuno film. Nessuno sa che cosa sia successo. Esatto. Mio Dio, mio Dio. Questi piranha sono dei piranha che vengono dalla preistoria, perché vengono risvegliati. C'è tutta una cosa tipica di questi film. Sì. C'è lo scienziato che dice: fermi pazzi, io so che cosa state per fare. Che tira fuori il fossile. E non hai idea da chi è interpretato lo scienziato. È interpretato da Christopher Lloyd, che è Doc di Ritorno al Futuro. Ma veramente? Un grande, che si è prestato a fare questa cosa in cui arriva col fossile e che dice: questi sono i piranha delle preistorici, voi non avete capito, è pericolosissimo. Chiaramente nessuno crederà che è veramente pericoloso, perché ricordano il film. E questi piranha straordinari massacreranno tutti, tutti, cioè che te già, diciamo, vedendo il film già ti stanno antipatici questi ignobili americani che fanno questi mega party stupidissimi. I piranha se li mangiano tutti quanti, e ci sarà anche in mezzo la storia familiare, la suspense, insomma. E l'amore? Ci sarà l'amore? Certo che ce l'ha. L'amore sboccerà sul set del film porno che stanno girando, perché a un certo punto alcuni degli attaccati saranno i protagonisti di questo film porno. Ma quello che conta, come dicevo, in questo film poi in realtà non sono tutte queste fregnacce, sono i piranha, il sangue e le tette, come nel vero e autentico cinema di serie B, come quello che deve essere, non come il cinema ripulito, ma vero, verace. Serie B proprio. Esatto, vedi. Il grande horror, quello molto autoriale, tipo Alien, Lo Squalo, film straordinari, bellissimi, ci hanno insegnato che si deve nascondere la paura, no? Io non ti faccio vedere e quindi tu ti spaventi ancora di più, ti nascondo. Aja invece è un vero coatto. Aja ti fa vedere tutto, da subito. I piranha si vedono dalla prima scena, subito, immediatamente. È la differenza tra il grande ristorante, quello molto raffinato, che fa poco, con poco fa molto, fa un piatto piccolo, con grande sapore, grande ricerca, grande cosa, e la trattoria, che mette una marea distrutto, ma è buono uguale. Cioè, e non è facile, non è che muove facile. Certo, la grande trattoria, la sera non vai a dormire perché poi... Esatto, esatto, la sera poi non vai a dormire, però è al suo modo grandissimo. E secondo me Piranha 3D è, e non poteva che non essere 3D poi, tra l'altro. Ah, ma com'è il 3D? È quello che è. È un 3D che ti viene incontro continuamente, che tutto esce fuori, è 3D coattissimo, come doveva essere. È veramente un film che è venuto come doveva essere. Cioè, che il 3D sparato all'inverosimile. Esatto, con i piranha che escono. Bellissimo, no, fenomenale. Bellissimo. Vabbè, non andrò a vederlo. prova il microfono, vediamo se funziona quello lì. Funziona? No. No, perché fa proprio boom. Fa boom. Sembra di essere il Papa in piazza San Pietro la domenica. Sì. No. Non va. Non va. Mentre altri film, prego. Mentre altri film che escono questa settimana per quelle persone che non vogliono vedere The Fighter, che non vogliono vedere Una cella in due, che non vogliono vedere Piranha 3D, ci sono due film italiani che escono di medio livello, diciamo. Vediamo di medio livello. Ah, sono il primo è La vita facile. La vita facile racconta una storia apparentemente molto molto molto banale per il una nostro film. Una domanda, perdonami. Sì. Il gioiellino, l'hai visto? Era il secondo film italiano. Ah, vabbè, quello. Chiedo scusa. Dicevo, La vita facile racconta una storia apparentemente molto molto molto banale per il nostro cinema. Cioè, la storia di persone alto borghesi che decidono di andare in Africa a curare i bambini africani e riscoprono i veri valori della vita in Africa. In realtà la cosa più carina del film, più interessante, è che inizia così, quindi truffando lo spettatore, facendoti credere che il solito film, la solita commedia italiana è, ma in realtà poi ha tutta una serie di colpi di scena, di cambi di tono, di mutamenti che lo rendono, se non altro, un pochino più interessante. Il film tecnicamente è fatto benissimo, è veramente che è una cosa poi non usualissima per il cinema italiano, è più una cosa che solitamente diciamo del cinema americano, ma invece questo qui tecnicamente è superbo. Ha un Pierfrancesco Favino, gli interpreti sono Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Vittoria Puccini. Ha un Pierfrancesco Favino che fa un personaggio, fa un romano, ma lo fa con una precisione che solo i romani veri possono rendersi conto di come è cesellato bene, come è preciso questo personaggio, come appartiene a una tipologia umana che esiste a Roma molto molto molto molto molto specifica. Si potrebbe quasi dire da come si muove, da come parla, si potrebbe quasi dire da che paese viene, da che paese dei dintorni di Roma viene, da che estrazione è, che vita ha avuto qua, tanto è ben fatto. Però appunto sono quelle cose che si apprezzano solamente, solo un romano può apprezzare. E per il resto è un film, come dicevo, pieno di svolte che continuamente diventa quello che non ti aspetti. Addirittura alla fine avrà anche una svolta noiresca non eccezionale, però comunque inaspettata e buona. Mentre l'altro di cui tu mi chiedevi è Il Gioiellino. Il Gioiellino è un film stranamente, cioè io pensavo avrebbero fatto più baccano intorno a questo film, mentre invece vedo che se ne è parlato poco. Eppure è il film che racconta il crack della Parmalat. E lo racconta con Tony Servillo, quindi anche con un attore di primo piano, Tony Servillo e Remo Girone, due attori grossi, no, che ho conosciuti. In realtà, ad essere proprio precisi, a detta anche del regista stesso, non racconta esattamente il crack della Parmalat. Fa un racconto che è molto simile a quello, ma che in fondo prende anche da altri crack famosi italiani. Quindi io penso, suppongo io, mi sembra anche che somiglia a quello della Cirio, insomma, quelli che sono stati più o meno nel medesimo periodo, cioè più o meno medesimi anni. C'è questa azienda che si chiama la Leda, che produce latticini e merendine del nord Italia, molto radicata nel nord Italia, il cui presidente ha anche una squadra di calcio e che ha dei sogni imprenditoriali più grandi di se stessa. Il film inizia negli anni 80. Quindi quando comincia l'ascesa, la grande ascesa. La Milano da bere. Però non è a Milano, è nel... Sì, no, insomma, parlavo in sì, generale. Comunque, esatto, 80. Esatto, erano quegli anni là comunque, sì, esatto. E racconta anche delle avventure all'estero e poi chiaramente arriva al momento in cui tutte queste aspirazioni si scontrano con un mercato che io lo scopro dal film e lo dico perché lo vedo nel film, ma non è che lo so io. Un mercato come quello dei latticini che pare essere un mercato con poco margine di guadagno. Cioè sul latte, dicono sempre nel film, sul latte non si guadagna, si guadagna poco quantomeno, è un mercato con poco margine. E quindi ufficialmente loro cominciano a... Che cominciano a fare? Che fa il contabile, il grandissimo contabile della società, che è Tony Servillo? Si inventa i soldi. Comincia a inventarsi i soldi e da lì c'è tutta la storia del crack. Allora, è un film con, come avete capito, delle premesse comunque interessanti, perché racconta il, praticamente il presente. Due grandi attori, due grandissimi attori, forse tra i migliori in Italia, direi. Sicuro, beh, Servillo di sicuro, su Remo Girone si può discutere, ma Servillo di sicuro, che racconta poi l'attualità, praticamente il presente, che è una cosa molto difficile da fare, però purtroppo non morde, è un film veramente che non morde. In questo sembra un film di Pupi Avati, che scorre come, come acqua liscia. Non ci sono sussulti, non ci sono colpi di scena. Ma neanche i momenti in cui tu dici, a un certo punto loro vanno, quando la situazione si fa brutta, il presidente della società, quello che dovrebbe sembrare Tanzi, va dal presidente del consiglio, perché dice, la Fiat l'avete aiutata, l'Italia l'avete aiutata, e cos'è? Che io no. Anche me. Però pure là è pochissimo, non si vede nulla. Lui entra dentro e dice, per farti capire chi è, dice semplicemente al figlio che è con lui: mi raccomando, ricordati di ridere alle sue barzellette, così ti fanno capire di chi stiamo parlando. Mamma mia, esatto. Banalissimo. E però, ne esce fuori, quando riesce dalla cosa, che tu capisci che gli ha venduto un giocatore di calcio. Ed è finito là. Non c'è, capito? Tu ti aspettavi, beh, adesso questa è una scena incredibile, questa, è un momento pazzesco. Invece niente, ed è un po', questo vi ho fatto un esempio, che però è un po' leitmotiv del film. Quando pensi che morderà davvero, che davvero andrà ad essere ficcante, invece un po' si ammoscia. E purtroppo il grandissimo Tony Servillo, come anche Remo Girone, non riescono ad essere al servizio del film. Cioè tu a un certo punto dici, guarda che bravo Tony Servillo, e pensi, che bravo Tony Servillo, non che bel film. Cioè lui diventa più forte e più grande del film, per cui cioè, alla più fine più forte del racconto. Sì, per cui tu alla fine non stai guardando quel personaggio, stai guardando Tony Servillo, e questo ti tira fuori dal film. Cioè nelle grandi prestazioni, quando De Niro fa il Toro Scatenato, tu stai guardando quello straordinario pugile, dici, che interpretazione, che pugile, che uomo, non che De Niro, ce lo dici dopo magari, però mentre lo vedi no. E invece qui Servillo un po' si mangia il film. Unico momento molto bello è poi il finale. Non anticipo niente, lo sappiamo tutti come va a finire. Il finale in cui la società ha il crack, arriva la polizia e c'è quel momento in cui devono distruggere tutto, che probabilmente è come effettivamente andato, perché sappiamo dalle cronache che poi così è stato, e che è molto ben costruito. Devo dire, è un bel momento in cui veramente spaccano tutto, bruciano, cosano, e lì è quello che prendono a martellate i computer. A martellate i computer, sì, è una cosa straordinaria. E poi stupidamente prendono a martellate, ho letto nelle cronache, insomma, prendono a martellate le tastiere dei computer. Sì, stupidamente. No, sì, ma anche poi le schede madri e non le memorie, quelle cose che invece. Però del resto lo facevano le segretarie, che non è detto che sappiano molto, cioè non sono tenute a sapere molto. E i gioielli nascosti per terra. Quindi, insomma, un film. Non lo so, i bravi critici solitamente dicono: questo è un film troppo vicino ai fatti che racconta. Questa è quella cosa che si dice solitamente. Io credo invece che sia semplicemente riuscito male. Va bene, abbiamo ancora un quarto d'ora. Io mi scuso con gli ascoltatori che hanno scritto, ma davvero tanti messaggi, ma ci si era bloccata la macchina degli SMS, e quindi tutte le richieste, le cose, sono andate a farsi friggere. Ma anche tutti i messaggi di apprezzamenti per me? No, quelli non sono proprio arrivati. Ma cosa ne pensi di Planet Terror? Ah, Planet Terror è il film di Robert Rodriguez, che è uno dei due film di Grindhouse. Vi ricordate, Grindhouse era un film doppio in cui ce n'era uno di Robert Rodriguez, che è Planet Terror, e uno di Quentin Tarantino, che era Prova di Morte. A me Planet Terror non è piaciuto molto, devo dire. Non mi ha fatto schifo, no, però non è che sono impazzito. Ho trovato molto molto migliore A Prova di Morte la parte, il segmento fatto da Quentin Tarantino. Quello sì che mi ha veramente colpito tanto. Ma ha smesso con Tarantino di fare film? No, ha cominciato, sta sul set del prossimo. Sta sul set. È ufficiale quale sarà il prossimo film di Tarantino. Ah, quale sarà? Un western. Pure lui. Beh, lui però è una vita che fa Sergio Leone. Lui imita Sergio Leone dalla vita. Non vedeva l'ora di farlo. E finalmente lo fa in maniera metodica. Secondo me chiamerà Clint Eastwood per fare un cameo. Guarda, sarebbe straordinario se lo facesse. Sarebbe veramente. Eastwood però ha detto che non recita più, l'ha detto. Ha detto, io ho mollato con la recitazione. Però Eastwood, che ricordiamolo, lo premiò Quentin Tarantino con Pulp Fiction, ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. E il presidente di giuria era Clint Eastwood. Quindi. Tutta una pastetta. Vabbè, film abbiamo finito. Ah no, altri film che escono questa settimana. Escono due film sottovalutati, cioè che difficilmente troverete nelle sale, che escono in poche sale, perché diciamo che la distribuzione non ci punta molto. Allora, uno è molto carino, l'altro meno. Quello molto carino, nel suo genere sempre, è Easy Girl. Easy Girl è una commedia adolescenziale, cioè una commediola americana che tratta di ragazzi. Genere che negli ultimi anni è molto fiorito e che ha dato vita a delle porcate indegne, ma non è questo il caso. Questo qui è un film che esplicitamente, perché lo dicono anche i protagonisti del film, si rifà molto a quelle commedie adolescenziali degli anni 80, tipo The Breakfast Club, Bella in Rosa, se non mi ricordo gli altri titoli, comunque quelle con Matthew Broderick, con Molly Ringwald, che erano straordinarie, solitamente dirette da John Hughes. Si rifà molto e lo fa con molta intelligenza. Per farvi un paragone con il cinema moderno, sembra Mean Girls, quel film di qualche anno fa, che pure era dello stesso genere e molto carino. E sulla falsa riga della Lettera Scarlatta, il romanzo, racconta di questa ragazza che diciamo, per evitare che l'amica gli rompa le scatole, dice una bugia, dice di aver fatto sesso, quindi non essere più vergine. La voce si sparge in un attimo e comincia a rivoltarsi contro di lei. Questa cosa, addirittura alcuni ragazzi vanno da lei e la pagano per aver detto di aver fatto sesso con loro, e quindi lei subirà più o meno lo stesso destino della protagonista della Lettera Scarlatta. Chiaramente poi, essendo una commedia adolescenziale, ci sono molte più cose, ci sarà anche la storia d'amore autentica e tutto quanto, però il film è molto divertente, molto carino veramente, ben fatto per davvero, che è appunto difficile, specialmente negli ultimi anni, col fatto che si sono moltiplicate queste pellicole, è stato difficile vederne ben fatte. Invece Easy Girl va molto molto bene, scorre molto bene. L'altro film, l'altra piccola uscita di questa settimana, invece, è un film che io, quando ho visto che film era e ho visto chi ci recitava, di che parlava e che era una piccola uscita, mi sono chiesto come fosse possibile. Si chiama Il Buongiorno del Mattino ed è un film sul mondo della televisione, sul mondo del news reporting, come direbbero gli americani, cioè dei notiziari, dei programmi notiziari americani, con Harrison Ford, che fa un ruolo molto, molto interessante, il ruolo del grandissimo reporter, quello che ha un'età, che è anziano, che è stato fenomenale, ha vinto milioni di premi e che adesso è un po' in disarmo, anche la sua rete lo tratta male. Arriva una ragazzetta che tenta di dar vita al programma del mattino. Il programma del mattino in questo film è, immaginatevi i programmi tipo La Prova del Cuoco, questi programmacci ignobili dove un po' si cucina, un po' si fanno vedere degli animali, cose ignobili. E con un espediente, trovando un cavillo nel contratto, obbliga il grandissimo reporter a prendere parte a questo programmaccio infame. La premessa era molto forte e la prima parte del film è molto bella, cioè forse Harrison Ford pure è uno di quegli attori che è una vita che non fa un ruolo serio, un ruolo bello, ed è uno dei più bei ruoli che ha fatto negli ultimi anni. Lui lo fa molto bene, cura molto bene la camminata, la postura, ha veramente un'aura del grandissimo intervistatore che ne ha vista di cotte di crude. Nella seconda parte del film ho capito perché l'hanno fatto uscire in così poche copie, perché è un film che, non so, da noi è impensabile. Cioè, la morale del film alla fine è molto banale, ma non è quello il problema, cioè è che si può fare una televisione intelligente e anche di grande intrattenimento. Però questo grande intrattenimento, come lo intende questo film, è una televisione ignobile, fatta di conduttori che si fanno malmenare, si fanno strizzare i capezzoli per alzare l'audience, giornalisti travestiti da ostriche che fanno i cretini. Ed è visto in chiave positiva tutto questo. Io non ci potevo credere mentre lo guardavo. Ah, non è una farsa? Io pensavo, beh, adesso poi fanno i veri programmi belli, no? Come tutti i film, poi adesso. E invece no. La morale di... Alla fine anche il giornalista blasonato si convertirà a questo tipo di televisione, facendola in maniera un pochino... Cioè la spazzatura, in pratica. Sì, finirà a fare le ricette però più alte. Cioè faccio le ricette, ma ricette mie che sono più raffinate. Però comunque Corsinale va a fare ricette in TV. E questo lo fanno passare, come avete visto, si può unire qualità a cosa? Intrattenimento puro. Allora ho capito, vabbè, sì, poche uscite, poche sale, mi raccomando. Perché Harrison Ford, insomma, è un nome importante, come De Niro. E insomma, si è anche impegnato, come dicevo, insomma, è un ruolo in cui lui si dà veramente, nella prima parte, quando fa il reporter duro e puro, quello che intervista Condoleezza Rice e gliene fa passare di tutti i colori, è un gran momenti, gran bel. Però poi, mamma mia. Vabbè, insomma, niente di nuovo sotto il sole e niente film belli da vedere per me questa settimana. Piranha 3D. No. Guarda, no. Piranha 3D è uno spettacolo. Tu guarda, adesso lo so, io so come fai. come tuo solito, ti fai arrivare il DVD dall'America, perché tu fai così, che non vadi a spese, eh? E mi dici, ah, guarda però, in effetti è... No, vado al cinema, magari esco prima. Scusa. E da quando ti hanno messo il cinema sotto casa, e come sta, vabbè, a casa tua? Scendo, biglietto, poi c'ho la maschera che mi fa lo sconto. Vabbè, invece prossima settimana anche qui proprio niente, moriamo di pizzichi. Prossima settimana, sì, prossima settimana siamo morti. Rango, Gangor, carissimo May, ragazzi stanno bene, il rito, le stelle, no, in piedi. Rango è un bel film, è anche un'uscita mediamente grossa, però non grossissima. Tutti al mare potrebbe essere, ma io non credo sarà una sorpresa. Tutti al mare è il film del figlio di Vincenzo Cerami, grandissimo sceneggiatore italiano, diciamo la cosa più famosa che ha fatto Vincenzo Cerami. Tazzina. Johnny Stecchino e La vita è bella. Sono due opere sue, Vincenzo Cerami questo. Matteo Cerami è il figlio e ha diretto questo Tutti al mare, che è un film con Gigi Proietti. È un film che a vederlo, poi devo ancora vederlo, quindi, però da quel che sembra è un film molto tranquillo, così leggero intrattenimento. Non credo che farà grandissimi ascolti, però grandissimi incassi, ma boh, vediamo, vediamo. La cosa che è preoccupante è che sono tutti terrorizzati, chiedo scusa, dell'uscita del 16-3. Amici miei, come tutto ebbe inizio. Guarda, non dirlo a me. Sono tutti terrorizzati. Però vedi, la differenza è che... Cioè, ma chi gli ha dato il permesso avete di farlo? Tutti paura, avete tutti paura, però alla fine non lo andrete a vedere, non sarà un problema. Io lo devo vedere, questo è il dramma vero. No, guarda, sarà... non ci posso pensare, vabbè. Ma tu hai notizie, sai... Allora, io no, abbastanza ho notizie, cioè mi sono documentato quantomeno, ho visto tutto quel che c'è da vedere, ho letto tutto quel che c'è da leggere, ho anche visitato il set, perché io lavoro a Cinecittà e a Cinecittà c'è il set della, lo so, l'ho visto anche Siena, io. Tra l'altro è bello, ho fatto benissimo. No, ho fatto molto molto set bene. Stupendo. Sì, sì, quello sicuramente. Però, non lo so, io non ho speranze. Neanche un pochino, poche. No, zero. Entrerò come al solito scevro da pregiudizi, bravo, come bravo, la mia professionalità, bravo, mi impone. Bravo, però vediamo gli attori. E gli attori quali sono? Gli attori Michele sono Placido, Giorgio quelli... Panariello, Barbara Enrighi, Paolo Hendel, Massimo Ghini, Pamela Villorese, Cristian De Sica, Alessandro... Sono quelli dei Cinepanettoni. E la compagnia di giro è quella. Gli sceneggiatori sono quelli, il regista Neri è quello. Parenti. E quella compagnia là. E guarda, è pesante, eh? Ma chissà, magari sarà bello, che ne sai? Magari. Magari sarà un film stupendo, migliore del primo e del secondo Amici miei. Detto una cosa sbagliata? Ho esagerato, no, un può po'. Può sempre essere. L'ho sparata grossa? Forse. No. L'ho sparata grossa. Può sempre essere. Diciamo che se non altro Monicelli è morto. Questo è una cosa. Quindi, più di tanti danni non ne potrà fare. I primi due Amici miei come tra i film più belli fatti in Italia? Guarda, cioè è una domanda veramente difficile, perché noi ne abbiamo fatti di incredibili. Guarda, io inserirei i migliori amici, i primi due Amici miei, li metterei a paragone con i migliori film di qualsiasi altro paese. Ma è proprio in Italia che perdono, ma non perché sono loro, ma perché in Italia abbiamo delle cose, abbiamo fatto delle cose che veramente sono 100 volte meglio i campioni degli altri film stranieri. Abbiamo una serie di capolavori, tra quelli noti, tipo Ladri di biciclette, per dire, e quelli poco noti, tipo Io la conoscevo bene, Il ferroviere, Sedotta e abbandonata. Ci sono una serie di film che non sono molto celebrati italiani, Il sole negli occhi, Un amore a Roma di Dino Risi, che sono straordinari e che pochi conoscono, ma sono a livello di Roma città aperta, di Cabiria, e non sto citando Fellini. Per cui in tutto questo purtroppo una perla come Amici miei un po' si perde, un pochino si perde. Però è chiaro che se lo dobbiamo valutare in assoluto rispetto anche al resto del cinema mondiale, sta nelle prime posizioni sicuramente. 20:56, ce ne stiamo per andare, sta per arrivare Margus a tenervi compagnia fino alla mezzanotte. La cosa del film su Silvio, sì. No, è un cameo fa. In cosa? In Piranha 3D? No, Silvio. In cosa? No, Silvio, giusto, giusto. Premier. No, perché in effetti no, sta uscendo anche un film su Silvio Berlusconi, un altro ne stanno facendo, che è un mezzo documentario, se ne sa poco, perché stanno facendo una campagna pubblicitaria che tende a nascondere, sai, quelle che ti fanno venire un po' l'acquolina in bocca. Per cui non so se fa riferimento a quel che dicevamo sul il film, sul gioiellino, il film che racconta del crack, forse è questo film, di cui però appunto volutamente ne vogliono far sapere poco, ed avrà più un carattere documentaristico che di finzione. Vasquez, io non posso far altro che ringraziarti molto. Adesso io torno a casa e mi sistemerò bene questo podcast con Massimo Marino. Guarda, sarà lo sparerò particolarmente forte sui podcast di Cellulite e Celluloide. Lo credo. E io credo che sarà uno dei più scaricati. Te lo vendi successo. Bene, di la verità. Beh. Ci sentiamo lunedì, domani sera per quel che mi riguarda, dalle 18 alle 21 sarò qui a tenervi compagnia. E come mai? Ti è saltato un impegno? Non c'avevi niente da fare? Beh, mi hanno detto, guarda, c'è un buco vuoto, che fai? Io dico, vengo a trasmettere, figuriamoci, di sabato pomeriggio mi faccio mancare questa cosa, anche perché io, da quando sono qui a Radio Rock, ho sempre fatto i sabati, però facevo dalle 3 alle 6. Mi ricordavo sta cosa, che te il sabato qualcosina facevi. Me l'hanno tolto. Ma mo è tornato? No, per un giorno. Poi 6-9 no, perché uno si deve preparare. È tipo sera. Una reunion. Una sorta di reunion. Con gli esuli del sabato sera. Ricordiamo, il sabato pomeriggio è l'orario in cui cominciò questo spazio di cinema. Mi viene una lacrima ormai qualche anno fa. Cominciamo il sabato pomeriggio. È vero, cominciò il sabato pomeriggio, è vero. Incredibile. Grande orario quello, 15-18. Ci sei tu? Domani prima di me ci sei tu? È il mio spazio, il mio è di Betta. Ah, domani prima di me ci siete voi? Sì. Fantastico. Nello spazio che fu. Fantastico, avrò proprio l'ascolto, il picco massimo. È come quando chi vuole essere milionario lancia il TG, è proprio al massimo. Che magari stanno a 500.000 euro, la domanda finale sta per rispondere. Grazie a tutti, a domani pomeriggio dalle 18 alle 21 dopo il buon Livio e la bellissima Betta Cianchini. Grazie a tutti e a domani. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Cellulite e Celluloide, Gabriele Vasquez, buonasera, ben trovato. Buonasera. Abbiamo al telefono un ospite, Massimo Marino. Pronto Massimo, ci sei? Pronto fratello. Come stai? Come va Massimo? Tutto bene, voi? Tutto benissimo, bene. Benissimo. Allora, diciamo che abbiamo qui in questa rubrica di cinema, abbiamo ospite Massimo Marino, perché Massimo Marino è tra gli interpreti di Una cella in due. È un film che esce questa settimana, è un film in cui i protagonisti sono Enzo Salvi e Maurizio Battista, ed è veramente un film, io direi, denoantri, cioè un film di romani, pieno di romani, ci stanno un sacco di partecipazioni, tra cui quella di Massimo. E la prima domanda che voglio fare a Massimo è... perché hai aderito a questo film? Qual è stata la motivazione che ti ha spinto, a parte i soldi? I soldi, quella è l'ultima, perché poca roba, fratello. L'hai fatto per la gloria? E qui se mangiamo pane immagine. Senti, questo non è il primo film a cui prendi parte. Hai fatto già Grande, Grosso e Verdone, che io già all'epoca, quando quel film uscì, ebbi a dire che la parte tua era sicuramente la parte migliore del film. Ma insomma, hai fatto anche altre comparsate. Io voglio sapere, quanto interesse hai in questa cosa? Sono loro che ti chiamano? Sei tu che vuoi farle? Come funziona questa tua partecipazione nel mondo del cinema? No, in realtà sono loro che mi cercano. E che ti hanno detto? Ti hanno spiegato il tuo personaggio o l'avete concordato? Avete deciso che personaggio avreste fatto? Ma che frequenza è la radio, fratello? 106 e 600. 106 e 600, mica. Che vuoi che... 103 va avanti. Stai. Macchina, capito, fratello? Ah, pensavo che volessi controllare che era tutto vero. Ah, stai andando alla premiere, grande. All'Adriano, fratello. Sei in smoking, quindi? 106 e 6. Sei in smoking, quindi, se vai alla premiere? Eh? Stai in smoking?